Oggi siamo in compagnia di Federico Maiorelli. Ciao, ciao a tutti. Ciao Federico. Dunque, oggi abbiamo l'onore di intervistare uno youtuber Sì. delle nostre parti, fra l'altro. Sì, dell'Appennino tosco-emiliano. Dell'Appennino tosco-emiliano. E da lì è partita la tua esplorazione, perché tu ci parlerai di cucina. Sì, esatto, di cucina. Sì, è partita dalle mie zone, diciamo, esattamente. E si tratta di, perché sono tanti le cose che ti insegnano ai tutorial a cucinare, invece il tuo è un po' particolare. Sì, il mio è più, diciamo, un sito, un canale YouTube che fa video recensioni di ristoranti per vedere esattamente come sono fatti all'interno, quanto si spende, diciamo per non lasciare proprio spazio a immaginazione, non so come dire, però nel senso riesci a vedere esattamente come è fatto un locale, diciamo quanto si spende, tutte le cose che riguardano appunto questo, i locali, i ristoranti delle nostre zone, anche noi, insomma. Ecco, infatti ci teniamo a precisare che Federico non guadagna assolutamente niente da questo. Assolutamente, assolutamente niente, è tutta passione, diciamo, tutta passione. E questo rende la cosa speciale perché appunto sono recensioni e sono, devo dire, fatte bene perché c'è la passione di chi lo fa per piacere. Sì, assolutamente, assolutamente. Piacere della cucina, ma anche piacere di editare, di fare dei video che siano Sì, veri. veri, esatto, esattamente. Io andando comunque per passione a mangiare fuori, spesso mi sono trovato davanti a internet a leggere alcune recensioni di persone e non trovavo mai quello che cercavo. Non trovavo mai quello che cercavo e veniva sempre detto, non so, mi piace questa cosa, ho speso, non dicevano mai magari esattamente quanto avevano speso, come era fatto esattamente il locale, e allora ho deciso di aprire questo canale YouTube. È nato da questo, Ma sì, alla diciamo. fine è capitato a tutti di trovarsi lì al momento. Dove andiamo? Che posto andiamo? Mai vorrei andare sui colli, mai vorrei andare. Andiamo a vedere le recensioni. E non Esatto. siamo mai convinti perché sta recensione dice non dice, ma l'avranno scritto. Invece, noi così vi possiamo dire che si chiama eTrip. I trip. eTrip, non l'abbiamo ancora detto. Esatto, si Il chiama canale i trip. YouTube, eTrip. Scritto EATRIP. EATrip. Ok, Sì. ok. EATrip è sincero, leale e soprattutto vedi il posto e non è che ti lascia dubbio, non dubbio, vedo, non vedo, capisco, non capisco. No, quello è. Tant'è Esatto, vero che mi hai esattamente. detto che tecnicamente tu non utilizzi neanche luci esterne No, in perché fase di registrazione. no, le ho, però non le utilizzo perché così si vede esattamente come è fatto, come sono le luci, cioè se è un locale con luci soffuse o cose del genere. Insomma, vedi, anche da quello vedi esattamente come è fatto, insomma. Ce ne sono tanti, fra l'altro non solo di Bologna e provincia. Sì, io, Bologna e provincia, ma anche posti, non so, Brisighella o zone un po' Per esterne, la gita no? fuori porta. Esatto, esattamente. Beh, ricordiamo quindi allora il canale YouTube dove iscriversi, giusto, per rimanere Esatto, aggiornati, per vedere esatto. sempre nuove recensioni, un po' un blog video, se si può dire. Sì, ci sono anche alcuni video su viaggi e cose del genere, sempre collegati comunque alla cucina. All'interno si trovano anche comunque video, non so, di Dublino, e all'interno c'è anche posti dove siamo andati a mangiare e cose del genere. Però sì, è concentrato soprattutto sulla cucina, ecco. E il canale si chiama eTrip, scritto eATrip. Iscrivetevi. Iscrivetevi, che non basta andare a vedere il video perché altrimenti ne vedi uno e poi finisce là. Invece la cosa, il segreto è iscriversi, Sì, così non escono continuamente le recensioni. i video si vedono lo stesso, però non iscriversi è un po' come entrare in casa di qualcuno senza suonare il campanello.